Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Se vuoi emozionarti, devi sintonizzarti. Il cammino di Gigi D'Agostino. D'Agostino. Dai un poco sta cassa. Yeah. cammino di Gigi D'Agostino. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino, che sono io. E altre storie. Spettacolo questo. Cioè, ti trovi con le mani al cielo e non sai neanche perché. È il cammino del Gigi D'Agostino. Aprile 2007, Officina Emotiva, con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale, presso la discoteca Fame Club, Zurigo, Svizzera. That's how it goes. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi, anch'io ho una canzone preferita, anche se un po' datata. Si tratta di Gigi's Violin e vorrei ascoltarla. Un forte abbraccio da Franca di Milano. Il cammino di Gigi D'Agostino. Coincidenza con i tuoi sogni. Siamo l'amore. Gigi, la tua voce incanta tutti. Sì, sì. Dedica una canzone romantica a Sandro, il mio cucciolo, che ti sta ascoltando mentre lavora. Violent. E altre storie. tutto. Se volete mandare le vostre dediche, i vostri dubbi, mandatemi il vostro SMS al numero 333-64-67-662. Dai un po', boh, dai un po', boro, po, po, dai un po', boh, dai un po', boro, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, dai un po', boh, dai un po', boro, po, po. Dai un po', oro, po, po, dai un po', po, dai un po', oro, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Gigi D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello, tello, martello. Angela 69. Cammino di Gigi D'Agostino, ogni giorno ti scassa un pochino. Qualche piccolo problema di equilibrio al suolo. Gigi D'Ag è un suono puro. Col suo tamburo stai sicuro. Col suo tamburo stai sicuro. Boom.

Ciao, sono Leo. Volevo dedicare Welfare a Vane del forum gigidagostino.com perché so che le piace tanto. Grazie. Feelings on is just one way, hanging on to yesterday, thinking what tomorrow's plan for me. Today, I know how to live my life, and I'm gonna do what I wish, gonna make the world move along with me. I wanna see the sun that shines above the mountains, by the snow, look at the trees, the way they grow, the rivers flow. Vorrei ascoltare Adagio, quel passaggio da brividozzi con bla bla bla e l'amour toujours che mi fa scendere la lacrima ogni volta, e dedicarla ai miei amici speciali della family del forum gigidagostino.com e soprattutto a te, e ringraziarti di tutto ciò che hai costruito e continui a costruire per noi, per noi e oltre. Grazie di cuore, Antonella. Gioia non si può descrivere. We'll be right back.

Guardiamoci in faccia. Stringiamoci la mano. Gigi D'Agostino, un suono sano. Vorremmo dedicare Toccando le nuvole ad Anna, perché con la sua allegria riesce a tirarti su anche nei momenti difficili e dirle che le vogliamo troppo bene. Auguri, scema. Oh. Dalle tue sorelline, da mamma e da papà. Anche oggi abbiamo fatto un piccolo tratto di strada insieme. Grazie per tutto questo. Ci sentiamo domani.